Smart City, la città intelligente. Buongiorno da Maurizio Melis. Ognuno di noi produce a riposo un centinaio di watt. Già se ci mettiamo a giocare col cane saliamo a 200 o giù di lì. Insomma, siamo delle stufette, anche se non particolarmente bollenti. Ma quando siamo tanti e sufficientemente ammassati, tutto questo calore comincia a farsi sentire. Al punto che in alcuni casi può essere molto difficile anche solo riuscire a dissiparlo, come sa bene chiunque sia stato anche solo una volta nella vita pigiato in una metropolitana o nel vagone di un treno. Ecco allora che l'idea di catturare il calore delle folle nei luoghi altamente frequentati non è poi così folle, appunto. Ce ne parla Chiara Albicocco, sentiamo. In Svezia ci hanno già pensato, la stazione ferroviaria di Stoccolma possiede un sistema di recupero del calore umano dei 250.000 utenti giornalieri. Il calore così catturato viene utilizzato per scaldare l'acqua contenuta in alcune cisterne in prossimità della stazione e a sua volta quest'acqua calda viene poi utilizzata in un palazzo di 13 piani adiacente alla stazione. Nel cuore di Parigi, nella stazione metropolitana di Rambuteau, si sta realizzando un sistema analogo. Il calore recuperato andrà a scaldare 17 case popolari. Ecco, per capire se è verosimile ed è un sistema efficiente questo tipo di sfruttamento del calore umano, siamo andati al Politecnico di Milano. Qui con noi stasera c'è il professor Ennio Macchi. Buonasera. Buonasera. Lei è direttore del Dipartimento di Energia, appunto, del Politecnico di Milano. Chiediamo a lei, insomma, di raccontarci un pochino se questi interventi sono verosimili e sono efficienti. Probabilmente sì. Sì, diciamo, sono efficienti e si inquadrano in generale nel concetto delle buone tecnologie di ottimazione o di risparmio energetico e si basano sostanzialmente su un concetto ben noto di termodinamica, che è il concetto della pompa di calore, cioè un congegno che è capace di assorbire calore da un certo ambiente e di trasferirlo con un ciclo termodinamico a una temperatura un po' più elevata, che può poi essere utilizzata per tutta una serie di applicazioni. Tanto più vicine sono le temperature a cui viene catturato il calore e a cui viene fornito, tanto più efficiente è la pompa di calore. Allora, con poca potenza elettrica si può trasferire una grande quantità di calore e quindi risparmiare molto combustibile. Se viceversa si utilizzasse una caldaia per produrre lo stesso calore, si utilizzerebbe una grande quantità di combustibile. In particolare in queste situazioni che abbiamo descritto, cioè i luoghi affollati dove ogni giorno appunto si vedono centinaia di migliaia di persone di passaggio, e se in realtà ci dica lei è verosimile questo numero, 100 watt di calore per persona, in effetti è una quantità, ci dia un'idea insomma della quantità che possiamo recuperare. Sì, no, la quantità può essere importante. Del resto è un'esperienza che anche gli utenti di Milano ben conoscono. Ci sono stazioni della metropolitana che sono normalmente a temperatura molto, molto elevata e richiedono addirittura di essere raffreddate. La stessa cosa può succedere in tutti i locali affollati, anche se all'esterno ci sono invece temperature basse che richiedono quindi di generare calore per mantenere alla temperatura desiderata gli ambienti. Adesso i numeri sono un po' difficili da valutare, quello che si cattura in realtà è il calore contenuto nella aria che viene a sua volta scaldata dalle persone. Bisogna vedere nel locale che tipo di dispersioni termiche ci sono, però come ordine di grandezza, che l'uomo sia una macchina umana che abbia una potenza all'incirca di 100 watt è un numero sensato, ecco, quindi non tutta questa energia va necessariamente in calore disperso all'ambiente, però la cosa è plausibile, sta in piedi ed è un concetto molto simile a quello che già oggi si utilizza spesso, ad esempio in ambienti, in edifici che sono molto ben coibentati, efficienti, in cui c'è una parte magari esposta al sole che è a temperatura un po' più elevata, un'altra parte che invece è più fredda, o dove ci sono grandi affollamenti o computer o sistemi di macchine che generano calore, il trasferire il calore da una parte all'altra dell'edificio risparmiando energia è una tecnica, diciamo, consolidata, ecco, nella buona climatizzazione. Infatti, mettendo insieme, diciamo, tutti questi accorgimenti, nel momento in cui si va a progettare ad esempio una nuova stazione, come nel caso, una ristrutturazione come nel caso di Parigi, la stazione ferroviaria svedese, ecco, in una logica di questo tipo, questo piccolo accorgimento in effetti potrebbe far risparmiare parecchio. Sì, va studiata bene, perché ci vuole l'utilizzatore termico vicino, ci vuole un sistema di captazione del calore che sia adeguato, ma certamente rientra in una serie di provvedimenti che possono essere significativi da un punto di vista del risparmio energetico. Contrariamente, non è verosimile pensare invece a questa forma di energia convertita in elettricità. Quello che ci conviene è sicuramente sfruttare il calore, non cercare di convertirla in nessun altro tipo invece di energia. Sì, diciamo, il concetto è che il calore a bassa temperatura è qualcosa di molto poco pregiato da un punto di vista termodinamico, mentre l'energia elettrica è estremamente pregiata. Quindi il convertire un qualcosa di poco pregio in qualcosa di alto pregio ha una, diciamo, una catena di rendimenti estremamente bassa. Per cui esistono dei sistemi per convertire calore a bassa temperatura, anche statici, in energia elettrica, però hanno dei rendimenti infimi e dei costi elevati. Ecco, quindi l'efficienza è molto, non... è molto meglio se si ha calore a bassa temperatura e se ha un utilizzo termico adeguato, usarlo direttamente e non seguendo delle vie che portano a una catena di rendimenti che penalizzano l'applicazione. Grazie a Chiara Albicocco, grazie al professor Ennio Macchi, ci salutiamo. Vi ricordo che ci potete scrivere a smartcity@radio24.it, potete contattarmi col mio nome, Maurizio Melis, anche su Facebook. Appuntamento a domani.